Dietro la notizia di Gianfranco Fabi. Buongiorno, bentornati ai nostri ascoltatori. Abbiamo parlato per due giorni quasi ininterrottamente di Stati Uniti, di America, delle grandi elezioni americane. Hanno segnato una svolta, meritava parlarne, meritava approfondire. Oggi torniamo in Italia, ma con uno sguardo lo lasceremo anche oltre Atlantico, e torniamo in Italia con Bruno Vespa. Buongiorno Bruno Vespa. Buongiorno. Torniamo con Bruno Vespa, che è stato protagonista anche lui della notte americana. Direi, se mi posso permettere anch'io una volta, complimenti per la trasmissione. Però ne parliamo per il libro Viaggio in un'Italia diversa. Un'Italia diversa è quella che è nata negli ultimi mesi con una grande svolta politica, una svolta politica che forse in alcuni mesi prima non si aspettava così rapida, una svolta politica di cui si stanno adesso misurando, ovviamente i giudizi sono diversi su questa svolta, si stanno misurando un po' i contenuti. Allora, Bruno Vespa, tu quando hai dato questo titolo, Viaggio in un'Italia diversa, pensavi l'Italia diversa dal passato. Oggi verrebbe da dire un'Italia diversa dagli Stati Uniti. Un'Italia diversa dagli Stati Uniti, ma anche diversa da se stessa, perché il libro è diviso in tre parti. Nella prima parte si parla della paura, cioè degli italiani che sono accorti di essere diversi dagli altri, perché hanno delle situazioni, hanno paura per esempio degli immigrati, e lì ci sono delle storie molto belle, molto drammatiche di immigrati che io sono andato a vedere e incontrare personalmente a Lampedusa, ma che poi quando si disperdono per l'Italia creano molti disagi, e lì io poi li ho registrati nel nord-est, dove la Lega non a caso ha triplicato i voti. Paura della situazione economica, io ho parlato con molte famiglie medie e racconto appunto anche proprio nel dettaglio il cambiamento e le loro condizioni di vita, sono andati negli ipermercati, nei supermercati a vedere proprio questa lotta all'ultimo centesimo, la lotta nei discount, la paura di una classe politica che per i suoi contrasti interni, sia quando governava il centrodestra sia quando ha governato con Prodi il centrosinistra, non riusciva a fare più di tanto, e quindi questo ha portato alla seconda parte del libro, cioè questa rivoluzione silenziosa che nel giro di 36 ore ha sconvolto il sistema politico italiano, di cui vengono raccontati tutti i retroscena, dal doppio ruolo conflittuale di Prodi e di Veltroni, al cavaliere che esattamente un anno fa non contava più del 2 di briscola, insomma, nei confronti dei suoi alleati, poi è salito su un predellino e ha fatto la sua rivoluzione, in tre mesi era di nuovo a Palazzo Chigi, la storia incredibile di Mastella che sembra una fiction, aveva l'Italia in mano e si è ritrovato poi con un pugno di mosche. Ecco, è cambiato tutto anche nel giro di poche ore. Proprio in questo libro ci sono, c'è il racconto, sentendo proprio direttamente i protagonisti, un po' anche degli intrighi che sono stati alle spalle di questo governo, anche se di questa caduta del governo Prodi, anche se Prodi poi nell'intervista che tu hai fatto a Marettimo dice ma sarebbe rimasto forse in piedi non qualche mese ma qualche settimana, quindi gli stimoli della crisi c'erano un po' tutti. Però qual è stata la goccia che ha fatto veramente traboccare il vaso? Il caso Mastella? Il caso Mastella non c'è dubbio, e anche qui per la seconda volta dopo il 95, insomma, c'è stata una spinta da parte della magistratura, anche se le condizioni erano molto diverse. Però Prodi mi ha detto che era convinto che nel giro di pochi giorni addirittura sarebbe caduto tutto, anche se Pecoraro Scanio poi mi ha confessato che lui sarebbe dimesso per non far cadere il governo, ma perché lui dice cominciavano a vedersi i frutti, e probabilmente l'ala moderata alla fine avrebbe mandato a picco il governo. Era una situazione oggettivamente insostenibile, lì poi, insomma, ci sono le confessioni di Fausto Bertinotti e sul senso di inutilità che lui attribuisce, in fondo dice gli elettori ci hanno punito perché ci hanno sentito inutili, quindi ci sono lamentele da destra perché il governo era troppo a sinistra perché era troppo a destra, e alla fine evidentemente non poteva durare. Ecco, prima di guardare, di lanciare un po' un'occhiata anche all'attualità, tu nel libro anticipi per esempio il tema della scuola, uno degli ultimi capitoli è dedicato proprio alla scuola, è dedicato l'ultimo capitolo al caso Alitalia. Restando ancora un attimo sul fronte del governo e della sinistra, forse una delle malattie della sinistra è stata quella di concepire, ma un po' tutta, non solo l'estrema sinistra, come una presenza provvisoria, quasi strumentale quella al governo, cioè la sinistra di lotta e di governo non ha mai sciolto veramente tutti i suoi nodi. Beh, questo è vero, non c'è dubbio che quella è stata la grande occasione per la sinistra radicale ed è stata la grande occasione perduta. un'occasione perduta, forse adesso non so se per ingenuità, però insomma, tutti si sono resi conto che una situazione di quel genere sarebbe stata irripetibile. Tutti hanno cercato di monetizzare, secondo Bertinotti e secondo tutti i leader della sinistra radicale non sono riusciti ad aver nulla, secondo gli altri sono riusciti ad aver troppo. Allora, un piccolo segreto ce lo puoi rivelare? Esiste veramente uno scontro D'Alema-Veltroni? Beh, insomma, più che uno scontro c'è una vecchia antica incomunicabilità, incompatibilità, direi. Insomma, sono due strade diverse, sono due persone che hanno visto crescere i figli insieme, le figlie di Veltroni chiamano zio Massimo, ma insomma, voglio dire, anche nelle migliori famiglie ci sono delle divergenze molto forti. Come era, al di là dei buoni rapporti personali, irreparabile la divergenza che viene nel libro, viene descritta fin nei dettagli, tra Veltroni e Prodi. Certamente. Erano due strade totalmente diverse e prima o poi era evidente. Quando Bettini dice se Veltroni resta, se Prodi resta ancora un anno di Walter, vedremo soltanto la Lisca, e beh, insomma, dice delle cose abbastanza chiare, insomma, no? Ecco, questo è un libro che racconta dall'A alla Z tutta la realtà italiana degli ultimi anni, dall'A alla Z, e chi viaggia in aereo ricorda l'Alitalia. Proprio sull'Alitalia il libro si apre ricordando i fasti della compagnia di bandiera e si chiude appunto dicendo che l'Alitalia è il capitolo, un po' un segnale di un cambiamento anche dei rapporti sindacali, del fatto che sia finita un'epoca. Ora l'Alitalia è ancora un po' nella bufera. Riusciremo veramente a superare questa logica del no che contrassegna spesso il sindacato? Bruno Vespa. Ma guarda, io sono convinto di sì. Non a caso la terza parte del libro si chiama Un nuovo inizio. Cioè, stanno capitando delle cose che lo stesso governo Berlusconi nel 2006, nel 2005, negli anni precedenti non sarebbe mai riuscito a fare. E per quanto ne so, e voi ne sapete più di me, essendo un grande giornale economico, Colaninno non mollerà di una virgola. Io nel capitolo rivelo tutti i retroscena, si stava per rompere proprio poche ore poi dalla firma del contratto, quando arrivò un messaggio, un sms di Passera sul cellulare di Gianni Letta dicendo ritiro l'offerta. Adesso l'offerta non è stata ritirata, è stata portata avanti, e nel libro poi si racconta fino alla fine, ma non molleranno di un millimetro. Insomma, questa è come la marcia dei 40.000 della FIAT. Ci sono dei momenti che segnano in qualche modo la storia dei rapporti sindacali, e l'Alitalia lo segna. Come non sarebbe stato pensabile, e lo scrivo, la storia dei fannulloni, come non sarebbe stata pensabile la riforma Gelmini sulla scuola. Poi tutte cose hanno difetti, tutte si possono migliorare, ma è cambiato completamente il clima. Cioè l'Italia o riparte già con l'elezione di Barack Obama e con una visione più mondiale da parte americana, noi l'Europa rischiamo di rimanere in un angolino, e noi rischiamo di rimanere dall'angolino all'angolino, insomma. Ecco, l'Italia è diversa perché si è scocciata, e io mi auguro che si sia svegliata. Speriamo che sia svegliata, che anche queste elezioni americane possano aver risvegliato qualcosa in Italia, anche direi nel senso di unità del paese. Tu notavi proprio nella diretta come la manifestazione finale fosse contrassegnata non tanto da bandiere di partito quanto da bandiere americane. In fondo aveva vinto l'America, e che si univa, e lo stesso discorso di Obama lo dimostra, si univa attorno a un uomo e anche che riconosceva anche gli avversari, che riconosceva anche la forza degli avversari. Sentirei Anna da Napoli, buongiorno. Buongiorno, e buongiorno a Bruno Vespa, non l'ho ancora sfogliato. Buongiorno signora. Buongiorno, non l'ho sfogliato ancora il suo libro, mi riprometto di farlo più presto. Volevo chiederle come mai in Italia un McCain e un Obama è così difficile trovare, ma anche nel carattere, non soltanto nella bravura. McCain perdente che omaggia il vincitore e zittisce il suo popolo. Noi dalla parte, io sono di sinistra, noi dal nostro avversario politico abbiamo soltanto durezza, asprezza, spregio. Ognuno ha le sue idee e non per questo bisogna offenderlo in quel modo. Non mi pare che la sinistra sia altrettanto dura. E poi lei diceva l'Italia è diversa, ma noi un Obama non ce l'abbiamo, forse avremmo potuto averlo se nell'ambito del suo partito non avessero pensato a diliscarlo. Grazie, e sia bene, buona giornata a tutti, arrivederci. Grazie, Bruno Vespa. Grazie signora, ma guardi, io ho un complesso nei confronti degli Stati Uniti da quando nel 2001, facendo la telecronaca della cerimonia funebre dopo la strage delle Torri Gemelle, vidi che tutti gli ex presidenti degli Stati Uniti cantavano l'inno nazionale insieme con la mano sul cuore, e io dissi appunto in diretta che da noi una cosa di questo genere sarebbe stata impensabile. indispensabile. E da allora io mi convinci che noi siamo un grande paese, perché l'Italia è un grande paese, ma non è una nazione. Ecco, la differenza tra paese e nazione è proprio questo senso di unità, questo senso di identità. È una bella lotta stabilire in Italia chi abbia cominciato a parlare male di chi, insomma. È evidente che certe posizioni alle quali, contro il suo carattere, oggi Veltroni è costretto da Di Pietro, è costretto da tante cose, è perché c'è una parte di italiani che non accettano puramente e semplicemente l'idea che Berlusconi stia a Palazzo Chigi. Poi Berlusconi attualmente potrebbe fare una parola di meno su tante storie, però c'è una fetta di italiani minoritaria, probabilmente sempre più minoritaria, per la quale il fatto che il Cavaliere sia Presidente del Consiglio è una cosa inaccettabile, un peccato contro natura. Ma al di là di questo, purtroppo, noi non siamo una nazione. Veltroni e Berlusconi che cantano insieme l'inno nazionale con la mano sul petto, purtroppo non ce li possiamo immaginare. Oggi siamo qui con Bruno Vespa, stiamo parlando del libro Viaggio in un'Italia diversa, l'ultimo libro scritto appunto da Bruno Vespa, un viaggio in un'Italia che si è scoperta diversa, ha voluto essere diversa, cerca di essere diversa in questo, in quest'anno, in questo momento, cerca un po' di riscoprire la modernità pur con tante difficoltà. Ora, leggendo i giornali di oggi, in cui ci sono appunto tutte queste pagine dedicate alle elezioni americane, sfogliando questi giornali, quando si arriva alla parte italiana, il titolo principale è Vendola lascia Rifondazione Comunista, una nuova scissione a sinistra. Bruno Vespa, è un po' disarmante. Disarmante, diceva prima la signora di Napoli, noi un Obama ce l'avevamo e l'abbiamo buttato via, si riferiva evidentemente a Prodi, ma guardiamo le situazioni. Obama ha la maggioranza, lei se l'immagina Obama che deve fare una riunione con nove partiti nel governo? Il problema è questo, insomma, noi partiamo in ritardo perché avevamo un sistema politico che non ci consentiva, anche ai migliori, anche le persone migliori non avrebbe consentito di fare un passo. Se l'immagina Obama che tiene da un lato Rifondazione Comunista, dall'altro da un lato Ferrero e dall'altro Mastella, è possibile questo? O un congresso nel quale lui ha un voto di vantaggio e che quindi gli blocca poi tutti i provvedimenti? E gli altri sono dei paesi normali. Noi con la semplificazione del sistema politico stiamo tentando di diventarlo, e anche con quelle botte di decisionismo alle quali non eravamo abituati e che a qualcuno, o quelle di Berlusconi, fanno venire il mal di pancia, insomma. Ma cioè, nei paesi democratici uno decide e poi gli altri alle elezioni o lo mandano al diavolo o lo confermano, e noi non siamo abituati a questi, siamo il paese dell'eterna mediazione e purtroppo anche dell'eterna immobilità. Certamente Obama non farà un ministero con 100 tra ministri e sottosegretari. Ferruccio da Como, buongiorno. Buongiorno. Ci dica. La mia domanda che volevo rivolgere al dottor Vespa è questa. Ieri, nel suo intervento a Milano, il presidente del Consiglio Berlusconi ha detto che c'è un appecoronamento degli informatori televisivi sul centro-sinistra. Ecco, la mia domanda è questa. Non è un preludio a una limitazione della libertà di parola e una nuova edizione del cosiddetto editto bulgaro? Vi ringrazio, se è possibile. Direi di no, perché Berlusconi ha capito l'errore che fece quando fece l'editto bulgaro, che poi portò al mancato rinnovo dei contratti a Santoro e a Enzo Biagi. Devo dire che, come è stato osservato anche da qualche giornale nelle settimane scorse, direi che attualmente, almeno per quanto riguarda la RAI, il panorama anti-berlusconiano è persino più esteso di allora. Quindi Berlusconi si lamenta sempre, si lamenta anche quando non si dovrebbe lamentare, insomma non mi meraviglio di questo, ma direi che situazioni come l'editto bulgaro in questo momento sono impensabili, perché tutto sommato Berlusconi ha anche capito che quando gli si fanno certe trasmissioni particolarmente squilibrate, ma insomma, alla fine non voglio dire che gli giovino, ma ci andiamo vicino. Insomma. Sì, in fondo in Italia non si può dire che manchi una libertà di parola, di espressione. Di no, insomma, no? Anche la storia che Berlusconi controlla tutta l'informazione, basta accendere la televisione, insomma, per rendersi conto. Potrebbe controllarla, è sicuramente l'editore di riferimento, in quanto capo della maggioranza del servizio pubblico, ed è l'editore di riferimento in quanto azionista del servizio privato. Detta così è impresentabile. Se andiamo a vedere nei fatti, basta accendere la televisione e vedere che, insomma, in Italia, grazie a Dio, c'è una libertà di informazione. E un atto, arriverei a dire, di irriverenza nei confronti del governo e del potere politico che altri paesi non hanno. Raffaele da Torino, buongiorno. Buongiorno, senta, vorrei chiedere questo. Ho sentito parlare dell'Italia Cosa ne pensa, dottor Vespa, della promessa fatta durante la campagna elettorale? A me sembra una promessa mancata, perché la promessa fatta allora si riferiva a una società che ora non esiste più, cioè quella l'Italia non c'è più. Quindi qualunque cosa dica, ad esempio ho sentito l'onorevole Capezzone, portavoce dell'Italia, prendendo in giro Rutelli, dicendo che diceva ando sta la cordata, ecco, la cordata venga o non venga non c'è, indipendentemente naturalmente dall'auspicio di trovare una sistemazione per i dipendenti. Grazie. La ringrazio, comunque appunto anch'io ho qualche dubbio. Ascoltate, mi pare che ci sia, e mi pare che siamo passati nel giro di pochi mesi alle accuse di una cordata fantasma che era soltanto dei sogni di Berlusconi, alla cordata degli affaristi, perché poi quando la cordata si è materializzata si è detto ma ha detto una banda di affaristi che insomma sono legati a doppio filo con il governo, insomma qualunque imprenditore sa che così non è, naturalmente non si tratta della compagnia delle dame di San Vincenzo, se stanno lì dentro è perché sperano di guadagnarci, non moltissimo a quanto si immagina, ma di guadagnarci, però la cordata c'è, e bene o male almeno per alcuni anni il controllo italiano dell'azionariato ci sa, dopodiché guardi, cioè bisogna fare la prova del budino, vedremo come andrà a finire, però mi pare, lo dico sottovoce, che quello che Berlusconi aveva detto in campagna elettorale mi pare che si stia realizzando, insomma, poi vedremo come sarà la nuova compagnia. È un'ultima telefonata rapida, Margherita da Milano, buongiorno. Buona giornata a tutti voi e buona giornata al signor Vespa che è presente in questo momento. Buongiorno. Allora, io volevo in un certo modo rispondere a una signora che è intervenuta poco fa, che si chiedeva come mai noi in Italia non riusciamo ad avere un uomo come Obama. E io rispondo alla signora che non riusciamo ad avere un uomo come Obama perché noi italiani non siamo come gli americani. Non sappiamo essere, come ha ben detto il signor Vespa, non sappiamo essere un popolo unico, non sappiamo privare di quella malattia che è l'ideologia e siamo quindi ridotti nello stato in cui siamo. Forse dobbiamo renderci conto che un grande presidente da solo non basta a fare un grande paese e una grande nazione, ci vogliono anche i cittadini, gli abitanti di questa nazione che devono unirsi tutti in uno scopo superiore a quello dell'ideologia, tristissima cosa, che purtroppo ammorba il nostro paese. Io sono molto triste di considerazioni come quelle per esempio fatte da Veltroni, forse ieri, nella quale ha detto Berlusconi, perché quello è il suo problema, stava con Bush mentre io sto con Obama, frase tristissima che definisce l'uomo meglio di qualunque cosa. La ringrazio, noi siamo un po' in conclusione e siamo appunto un paese forse che ama più dividersi che unirsi. Bruno Vespa. Beh, insomma, è legittima direi la soddisfazione di Veltroni che una persona con la quale che lui ha conosciuto già alcuni anni fa sia diventato presidente degli Stati Uniti. Naturalmente è un po' così provinciale dividerci in romanisti laziali, milanisti interisti a proposito di Obama. Naturalmente l'ala progressista del paese è legittimamente soddisfatta, ma direi che la riflessione che dobbiamo fare noi italiani, signora, è quella alla quale si è associata lei. Perché siamo così diversi? E siamo così diversi perché non riusciamo ad unirci sulle misure fondamentali. Io sono un ottimista di carattere e poi nel libro lo dico, avendo visto il dopoguerra e quello che siamo riusciti a fare nel dopoguerra, penso che ce la faremo, la sfangheremo bene anche stavolta e che anche questa possa essere proprio la crisi che stiamo vivendo, un'occasione di rinascita. Ma nel dopoguerra, anche se Togliatti e De Gasperi si tiravano le sedie, perché le sedute parlamentari non erano certo più tranquille di queste, avevano uno scopo comune. Io mi auguro che ci sia da parte di tutto il paese lo scopo comune di ritornare ad essere un grande paese normale e di non restare nell'angolo come rischiamo. È un auspicio a cui mi associo, indubbiamente guardare in avanti, cercare di essere un paese unito, sicuramente attraverso anche il dibattito, il dialogo, il confronto, se necessario lo scontro, ma unito nel guardare in avanti e nel sollecitare appunto la possibilità di mettersi tutti insieme, di mettere insieme le forze che vogliono guardare in avanti. Io ringrazio Bruno Vespa di essere stato con noi, abbiamo parlato del suo libro Viaggio di un'Italia diversa, ringrazio Carmelo Lauricella in regia, quanti ci hanno ascoltato, l'appuntamento è per domani.